Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Il giorno dopo la morte di Aureliano II, uno degli amici che avevano portato la corona con la scritta irriverente si offrì di pagare a Fernanda una somma che doveva da tempo a suo marito. A partire da quel momento, un fattorino portava ogni mercoledì un canestro di roba da mangiare che era più che sufficiente per una settimana. Nessuno seppe mai che quelle vettovaglie le mandava Petra Cotes, con l'idea che la carità continuata fosse un modo di umiliare colei che l'aveva umiliata. Tuttavia, molto prima di quanto lei stessa sperava, le svanì il rancore e allora continuò a mandare il cibo per orgoglio e alla fine per compassione. Parecchie volte, quando le mancavano le forze per vendere i bigliettini e la gente non si interessava più alle riffe, rimase lei senza mangiare per dar da mangiare a Fernanda e non smise di mantenere quell'impegno finché non vide passare il suo funerale. Per Santa Sofia della Pietà, la riduzione degli abitanti della casa avrebbe dovuto rappresentare il riposo al quale aveva diritto dopo più di mezzo secolo di lavoro. Non si era mai sentito un lamento da quella donna, riservata, impenetrabile, che aveva seminato nella famiglia i germi angelici di Remedios la Bella e la misteriosa solennità di José Arcadio II, che aveva consacrato tutta una vita di solitudine e di silenzio all'allevamento di qualche bambino che neanche più si ricordava di esserle figlio o nipote e che si era occupata di Aureliano come se fosse uscito dalle sue viscere, senza nemmeno sapere di essergli bisnonna. Solo in una casa come quella era concepibile che avesse dormito sempre su una stuoia che stendeva sul pavimento del granaio, tra lo strepito notturno dei topi, e senza aver raccontato a nessuno che una notte si era svegliata con la paurosa sensazione di qualcuno che la stava guardando nel buio, ed era una vipera che le scivolava sul ventre. Lei sapeva che se l'avesse raccontato a Ursula, questa l'avrebbe messa a dormire nel suo stesso letto, ma erano i tempi in cui nessuno si accorgeva di nulla, a meno di non urlarlo nel portico, perché col da fare che dava il forno, i sussulti della guerra, l'allevamento dei bambini, non restava tempo per pensare alla felicità altrui. Petra Cotes, che non aveva mai visto, era l'unica che si ricordava di lei. Badava che avesse un paio di scarpe per uscire, che non le mancasse mai un vestito, anche nei tempi in cui facevano salti mortali coi soldi delle riffe. Quando Fernanda arrivò nella casa, ebbe motivo di credere che fosse una serva eternata, e benché avesse sentito dire parecchie volte che era la madre di suo marito, la cosa le sembrava così incredibile che faceva più fatica a saperlo che a dimenticarlo. Santa Sofia della Pietà non parve prendersela mai per quella condizione di subalterna. Al contrario, si aveva l'impressione che le piacesse darsi da fare, senza un minuto di requie, senza una rimostranza, mantenendo ordinata e pulita l'immensa casa dove aveva vissuto fin dall'adolescenza e che soprattutto nei tempi della compagnia bananiera sembrava più una caserma che una dimora. Ma quando morì Ursula, la diligenza inumana di Santa Sofia della Pietà, la sua tremenda capacità di lavoro, cominciarono a incrinarsi. Non tanto perché era vecchia e sfinita, ma perché la casa crollò dalla sera alla mattina in una crisi di senilità. Un musco soffice si arrampicò sui muri. Quando non ci fu più una zona libera nel patio, le erbacce spezzarono dal di sotto il pavimento del portico, lo scheggiarono come un vetro e sbucarono dalle crepe gli stessi fiorellini gialli che quasi un secolo prima aveva trovato Ursula nel bicchiere dove era la dentiera posticcia di Melchiades. Senza né tempo né mezzi per impedire la prepotenza della natura, Santa Sofia della Pietà passava le giornate nelle stanze a scacciare le lucertole che sarebbero ritornate di notte. Una mattina vide che le formiche rosse uscivano dalle fondamenta scalzate, attraversavano il giardino, salivano sul parapetto dove le begonie avevano preso un colore terroso ed entravano fino in fondo alla casa. Cercò dapprima di ucciderle con una scopa, poi con l'insetticida e per ultimo con la calce. Ma il giorno dopo erano ancora nello stesso luogo, sempre in moto, tenaci e invincibili. Fernanda, nello scrivere lettere ai suoi figli, non si rendeva conto dell'aggressione inarrestabile della distruzione. Santa Sofia della Pietà continuò a lottare da sola, combattendo contro l'erbaccia perché non invadesse la cucina, strappando dai muri bioccoli di ragnatele che si riproducevano in poche ore, raspando il tarlo. Ma quando vide che anche la stanza di Melchiade si era ragnatelata e polverosa, anche se la scopava e spolverava 3 volte al giorno, e che nonostante la sua furia sbrattatrice era minacciata dalla rovina e dall'aspetto di miseria che soltanto il colonnello Aureliano Buendia e il giovane militare avevano previsto, capì di essere sconfitta. Allora indossò il consueto abito della domenica, si mise un paio di vecchie scarpe di Ursula e un paio di calze di cotone che le aveva regalato Amaranta Ursula e fece un fagottello con i 2 o 3 ricambi che le restavano. «Me arrendo», disse ad Aureliano. «Questa casa è troppo per le mie povere ossa». Aureliano le chiese dove sarebbe andata e lei fece un gesto vago, come se non avesse la minima idea della sua meta. Cercò di precisare, tuttavia, che sarebbe andata a passare i suoi ultimi anni da una cugina prima che viveva a Rioaccia. Non era una spiegazione verosimile. Dalla morte dei suoi genitori non aveva avuto rapporti con nessuno nel villaggio, né aveva ricevuto lettere o messaggi, né aveva mai parlato di parenti. Aureliano le diede 14 pesciolini d'oro, perché lei era disposta ad andarsene con tutto quello che aveva, 1 peso e 25 centavos. Dalla finestra della stanza lui la vide attraversare il patio col suo fagottello di roba, strascicando i piedi e inarcata dagli anni, e la vide infilare la mano in un foro del portone per assicurare il saliscendi dopo essere uscita. Non si seppe più nulla di lei. Quando venne a sapere della fuga, Fernanda vaneggiò per una giornata intera, mentre controllava bauli, cassettoni e armadi, ogni cosa per convincersi che Santa Sofia della Pietà non se l'era data a gambe con qualcosa. Si bruciò le dita cercando di accendere il fuoco per la prima volta in vita sua e dovette chiedere ad Aureliano il favore di insegnarle a preparare il caffè. Col tempo fu lui a occuparsi delle faccende di cucina. Quando si alzava, Fernanda trovava la colazione servita e tornava a uscire dalla stanza solo per prendere il cibo che Aureliano le lasciava coperto sul focolare e che lei portava a tavola per mangiarlo su tovaglie di lino e tra candelabri, seduta a un posto d'onore solitario all'estremità di 15 sedie vuote. Anche in quelle circostanze Aureliano e Fernanda non divisero la solitudine, ma continuarono a vivere ciascuno nella sua, badando alle pulizie delle loro rispettive stanze, mentre le ragnatele infioccavano i rosai, tappezzavano le travi, imbottivano le pareti. Fu in quell'epoca che Fernanda ebbe l'impressione che la casa si stesse riempiendo di spiriti. Era come se gli oggetti, soprattutto quelli di uso quotidiano, avessero sviluppato la facoltà di cambiare di posto coi loro stessi mezzi. Fernanda perdeva un mucchio di tempo a cercare le forbici che era sicura di aver messo sul letto e dopo aver buttato per aria ogni cosa le trovava su uno scaffale della cucina dove credeva di non essere stata da 4 giorni. Improvvisamente non c'era più nemmeno una forchetta nel cassetto delle posate e ne trovava 6 sull'altare e 3 nel lavandino. Quel girovagare delle cose era ancora più esasperante quando si sedeva a scrivere. Il calamaio che metteva a destra riappariva a sinistra. Il foglio di carta asciugante spariva e lo trovava 2 giorni dopo sotto il cuscino. E le pagine scritte a José Arcadio si confondevano con quelle di Amaranta Ursula. E la affliggeva sempre la mortificazione di aver messo le lettere in buste scambiate, come in effetti le successe parecchie volte. Una volta perse la penna. 15 giorni dopo gliela restituì il postino che se l'era trovata nella borsa e ne andava cercando il padrone di casa in casa. Sulle prime Fernanda credette che fosse colpa dei medici invisibili, come la sparizione dei Pessari, e cominciò perfino a scriver loro una lettera per supplicarli che la lasciassero in pace. Ma costretta a interromperla per fare qualcosa, Quando tornò nella stanza, non soltanto non trovò più la lettera cominciata, ma si dimenticò perfino dell'intenzione di scriverla. Per qualche tempo pensò che fosse Aureliano. Si mise a sorvegliarlo, a mettere oggetti sul suo passaggio, cercando di sorprenderlo nel momento in cui li cambiava di posto. Ma ben presto si convinse che Aureliano non usciva dalla stanza di Melchiade se non per andare in cucina o al gabinetto, e che non era uomo da burle. Di modo che finì per credere che fossero birbonate di spiriti e decise di assicurare ogni cosa al luogo dove doveva usarla. Legò le forbici con una lunga funicella alla testiera del letto, assicurò la penna e il foglio di carta asciugante alla gamba del letto e appiccicò con la colla il calamaio al tavolo alla destra del luogo dove usava scrivere. I problemi non si risolsero da un giorno all'altro, poiché già dopo poche ore di cucitura la funicella delle forbici non le consentiva più di tagliare, come se gli spiriti l'andassero accorciando a poco le succedeva lo stesso con la funicella della penna e perfino col suo stesso braccio, che dopo poco tempo dall'inizio della lettera non riusciva più a raggiungere il calamaio. Né Amaranta Ursula a Bruxelles né José Arcadio a Roma furono mai messi a conoscenza di questi insignificanti infortuni. Fernanda scriveva loro che era felice, e in effetti lo era, proprio perché si sentiva sollevata da qualsiasi impegno, come se la vita l'avesse trascinata di nuovo verso il mondo dei suoi genitori, dove non si soffrivano problemi quotidiani perché erano risolti anticipatamente nella fantasia. Quella corrispondenza interminabile le fece perdere il senso del tempo, soprattutto dopo che se ne andò Santa Sofia della Pietà. Si era abituata a contare i giorni, i mesi e gli anni, prendendo come punto di riferimento le date previste per il ritorno dei figli. Ma quando questi spostarono i termini di volta in volta, le date le si confusero, le scadenze le si mescolarono e le giornate somigliarono tanto l'una all'altra che non le avvertiva trascorrere. Invece di spazientirsi, provava un profondo compiacimento per la dilazione. Non la inquietava il fatto che parecchi anni dopo averle annunciato di essere in procinto di prendere i voti perpetui, José Arcadio continuasse a dirle che sperava di terminare i suoi studi di alta teologia per intraprendere quelli di diplomazia. Perché lei capiva che era assai lunga e disseminata di ostacoli la scala a chiocciola che portava alla sedia di San Pietro. In cambio, lo spirito le si esaltava per notizie che per altri sarebbero state insignificanti, come quella che suo figlio aveva visto il Papa. Provò una gioia simile quando Amaranta Ursula le mandò a dire che i suoi studi si prolungavano più del tempo previsto, perché i suoi eccellenti voti le avevano fatto meritare dei privilegi che suo padre non aveva preso in considerazione al momento di fare i conti. Erano trascorsi più di 3 anni da che Santa Sofia della Pietà gli aveva portato la grammatica, quando Aureliano riuscì a tradurre il primo foglio. Non fu un lavoro inutile, ma era appena un primo passo su una strada la cui lunghezza era impossibile prevedere, perché il testo in spagnolo non significava nulla, erano versi cifrati. Ad Aureliano mancavano gli elementi per scoprire le chiavi che gli avrebbero permesso di sviscerarli, ma dato che Melchiades gli aveva detto che nel negozio del savio catalano c'erano i libri di cui avrebbe avuto bisogno per comprendere le pergamene, decise di parlare con Fernanda per farsi dare il permesso di andare a cercarli. Nella stanza, divorata dai rottami, la cui proliferazione incontenibile aveva finito per sconfiggerlo, pensava al modo più opportuno di formulare la richiesta, si anticipava alle circostanze, calcolava l'occasione più propizia, ma quando si imbatteva in Fernanda, che ritirava il suo pranzo dalle braci, che era l'unica opportunità per poterle parlare, l'istanza laboriosamente premeditata non gli usciva dalle labbra e perdeva la voce. Fu quella l'unica volta che la spiò. Curava i suoi passi nella stanza da letto. La sentiva andare fino alla porta per ricevere le lettere dei suoi figli e per consegnare le sue al postino, e ascoltava fino a notte tarda il raschio duro e appassionato della penna sulla carta, prima di sentire il rumore dell'interruttore e il mormorio delle orazioni nel buio. Soltanto allora prendeva sonno, fiducioso che il giorno seguente gli avrebbe presentato l'occasione sperata. Si illuse tanto che il permesso non gli sarebbe stato negato, che una mattina si tagliò i capelli che gli scendevano sulle spalle, si rase la barba arruffata, si infilò dei pantaloni stretti e una camicia col colletto posticcio che non sapeva da chi aveva ereditato, e aspettò in cucina che Fernanda venisse a fare colazione. Non arrivò la donna di tutti i giorni, la donna col capo eretto e il portamento rigido, ma una vecchia, di una bellezza soprannaturale, con una cappa di ermellino ingiallito, una corona di cartone dorato e il fare languido di chi ha pianto in segreto. In realtà, da quando lo aveva trovato nei bauli di Aureliano II, Fernanda aveva indossato parecchie volte il tarlato vestito da regina. Chiunque l'avesse vista davanti allo specchio a estasiarsi dei propri atteggiamenti monarchici avrebbe potuto pensare che fosse pazza, ma non lo era. Non aveva fatto altro che trasformare le insegne regali in una macchina per ricordare. La prima volta che le indossò, non riuscì a evitare che le si formasse un nodo nel cuore e che gli occhi le si riempissero di lacrime, perché in quell'attimo tornò a percepire l'odore di lucido degli stivali del militare che era venuto a cercarla nella sua casa per farla regina, e lo spirito le si cristallizzò nella nostalgia dei sogni perduti. Si sentì così vecchia, così sfinita, così distante dalle ore migliori della sua vita, che dimenticò perfino quelle che ricordava come le peggiori. E soltanto allora scoprì quanto le mancavano le folate di origano nel porticato e il vapore dei rosai al crepuscolo e perfino la natura bestiale degli avventizi. Il suo cuore, di cenere compressa, che aveva resistito senza vacillare ai colpi più pungenti della realtà quotidiana, crollò ai primi assalti della nostalgia. La necessità di sentirsi triste si andava trasformando in lei in un vizio a mano che la devastavano gli anni. Si umanizzò nella solitudine. Tuttavia, il mattino in cui entrò nella cucina e si trovò davanti a una tazza di caffè che le offriva un adolescente ossuto e pallido con un bagliore allucinato nello sguardo, la lacerò la zampata del ridicolo. Non soltanto gli rifiutò il permesso, ma da allora conservò le chiavi di casa nella borsa dove conservava i pessari non ancora usati. Era una precauzione inutile, perché se lo avesse voluto, Aureliano sarebbe potuto scappare e perfino tornare a casa senza essere visto. Ma la prolungata clausura, l'incertezza del mondo, l'abitudine di ubbidire avevano inaridito nel suo cuore i semi della ribellione. Di modo che tornò nella sua clausura a sfogliare e risfogliare le pergamene e ad ascoltare fino a notte fonda i singhiozzi di Fernanda nella sua stanza da letto. Una mattina andò come al solito ad accendere il fuoco e trovò sulle ceneri spente il cibo che aveva lasciato per lei il giorno prima. Allora si affacciò nella camera e la vide, distesa sul letto, coperta con la cappa di ermellino, più bella che mai, e con la pelle trasformata in una maschera d'avorio. 4 mesi dopo, quando arrivò José Arcadio, la trovò intatta. Era impossibile concepire uomo più simile a sua madre. Indossava un abito di luttuoso taffetà, una camicia col colletto rotondo e duro e un sottile nastro di seta con un fiocco invece della cravatta. Era livido, languido, con lo sguardo attonito e le labbra deboli, i capelli neri, lucidi e lisci, divisi nel mezzo del cranio da una linea retta ed esangue. Avevano lo stesso aspetto posticcio dei capelli dei santi. L'ombra della barba, accuratamente rasa sul viso di paraffina, sembrava un affare di coscienza. Aveva le mani pallide, con nervature verdi e dita parassitarie, e un anello d'oro massiccio con un opale girasole, rotondo, sull'indice sinistro. Quando gli aprì la porta di strada, Aureliano non avrebbe avuto bisogno di supporre chi era per rendersi conto che arrivava da molto lontano. La casa si impregnò al suo passaggio della fragranza di acqua di lavanda che Ursula gli metteva in testa quando era bambino per poterlo reperire nelle tenebre. In un certo modo impossibile da precisare, dopo tanti anni di assenza, José Arcadio era rimasto un bambino autunnale, terribilmente triste e solitario. Andò direttamente nella stanza di sua madre, dove Aureliano aveva vaporizzato mercurio per 4 mesi nella Tanor del nonno di suo nonno per conservare il corpo secondo la formula di Melchiades. José Arcadio non fece alcuna domanda. Posò un bacio sulla fronte del cadavere. Gli tolse da sotto la sottana la tasca dove c'erano ancora 3 pessari non ancora usati e la chiave dell'armadio. Faceva ogni cosa con gesti diretti e discreti che contrastavano con la sua languidezza. Tolse dall'armadio un cofanetto damaschinato con lo scudo di famiglia e trovò nell'interno, profumato di sandalo, la lettera voluminosa nella quale Fernanda aveva sfogato il suo cuore dalle innumerevoli verità che gli aveva nascosto. La lesse, in piedi, con avidità ma senza ansia, e alla 3ª pagina si fermò ed esaminò Aureliano con uno sguardo da seconda indagine. «Allora», disse con una voce che aveva un che di tagliente da rasoio, «tu sei il bastardo». «Sono Aureliano Buendía». «Vattene nella tua stanza», disse José Arcadio. Aureliano se ne andò e non ne uscì nemmeno per curiosità quando udì i rumori del funerale solitario.